Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Infatti oggi è arrivato il presidente dell'Iran, che proprio incarna il XXI secolo. Lo rappresenta così tanto che oggi ci ha fatto coprire con degli scatoloni bianchi delle statue romane di 2000 anni fa, che sono copie di statue greche di 2600 anni fa, perché rappresentavano dei corpi nudi. Cioè praticamente la Venere Capitolina ce l'ha fatta diventare una scarpiera dell'Ikea. Quindi ricapitoliamo un attimo. Oggi un signore con un asciugamano in testa ci ha fatto coprire delle statue di 2000 anni fa perché si sentiva offeso da due zizze di marmo di 2600 anni fa. Ma cosa vuoi che ti dica? Rouhani. Rouhani è fatto così, Giova. Rouhani non può vedere il corpo umano nudo. Gli dà fastidio. Gli dà così fastidio che il bidet Rouhani se lo fa al buio, se no si offende da solo. Se mi vedo il culo che mi imbarazzo da solo. Comunque, questo signore qua, Giova, indipendentemente dalle sue paturnie, non è mica un profugo, eh? È uno che sta portando 17 miliardi di investimenti per le imprese italiane. Questa era Crozza sulla vicenda che oggi sta appassionando l'Italia. Tutti i giornali hanno in prima pagina la foto del cassettone Ikea che copre la Venere Capitolina. Che poi la Venere Capitolina si copriva la passera con una mano, era una Venere molto pudica. Sì, si vedevano un po' di tette, ma con una mano un po' se le copre e diciamo l'inguardabile voragine femminile era coperta con una mano. Avete visto, è stato già superato dalla cronaca, come avete sentito nel giornale radio che mi ha preceduto. Il presidente iraniano ha detto: ma a me non me ne poteva importare di meno, io non l'ho mai chiesto di oscurare la statua, figuriamoci. Palazzo Chigi ha preso le distanze, adesso si cercherà la testa di colui che farà le spese, che sarà stato il braghettonatore. Il cerimoniale del Campidoglio dice: ma non siamo stati noi, è stato il cerimoniale Palazzo Chigi. Palazzo Chigi dice: ma noi quando mai? Il ministro dice: quando mai? Alla fine verrà fuori, prenderanno, non so, qualche poveretto che dirà: sì, l'ho fatto io, sono stato io che l'ho coperta, non volevo, mi dava fastidio, mi affocava i sensi e ho preso la scusa che servisse per il presidente iraniano. Diciamo che un pochino questa idea di coprire i capolavori dell'arte classica perché a qualcuno in varie epoche hanno dato fastidio non è proprio nuova del nostro paese. Dobbiamo farci un pochino di autocoscienza, la cosa in sé è ridicola, ci siamo ridicolizzati agli occhi del mondo intero, ci faranno pernacchie e risate dietro chissà per quanti mesi gli italiani che coprono le statue di 2000 anni fa semplicemente perché temono che possa urtarsi il presidente iraniano. Ma non potevano fargli fare un altro giro? Facciano passare da un'altra parte. Eh sì, ma dopo c'era il cavallo di Marco Aurelio, anche quello, il cavallo, c'ha due palle gigantesche da dietro, dovevano mettere, non so, un sospensorio al cavallo di Marco Aurelio. Ma risolvendo qualche piccolo problemino, c'era stato un percorso virtuoso per il presidente iraniano, che non ci siano cose nude da vedere. Non mi pare che il nostro sia un paese che offre così tante tentazioni marmore ad ogni colpo d'occhio. Evidentemente qualcuno è esagerato, come al solito c'è sempre il solito ruffiano, quello che vuole essere più realista del re stesso, che ha fatto questa grossa cavolata di cui pagherà sicuramente il fio, sarà messo nella pubblica piazza coperto di piume e di bitume e portato in giro come oggetto della vergogna. Poi guardate, nemmeno tanto tempo fa, era il 2008, quando il presidente Berlusconi fece velare un capezzolo della verità svelata di Tiepolo, perché ha un grande pannello alle sue spalle, quando parlava c'aveva questo capezzolo sopra la testa e fece mettere una specie di reggiseno. Quelli che oggi fanno gli indignati e dicono: ci siamo prostrati rinunciando alla nostra cultura per l'Islam che sta mangiandosi le nostre tradizioni. Beh, allora potranno protestare quando Berlusconi, che poi mi sembra che passerà la storia per tutt'altro che attività pudiche, abbia fatto mettere il reggiseno al Tiepolo. Ma vogliamo scendere, andare un pochino più indietro? Già l'ho accennato ieri, quando questa notizia fu oggetto di indignazione di un nostro ascoltatore, ce l'ha detta subito in diretta: ma siamo pazzi. Ecco, ricordate che l'Italia post-bellica democristiana era molto più bacchettona di quanto poteva esserlo il fascismo. Già l'ho detto, Andreotti fece mettere le cosiddette cazzarolette, come le chiamava lui, che erano delle conchiglie di bronzo, sui già scarni attributi che avevano le statue dello Stadio dei Marmi del Foro Italico. Non voglio parlarvi di Daniela Volterra, il braghettone, il famoso copritore di indecenze del Giudizio Universale, che sotto Pio IV fece un lavoro indegno per cui passerà la storia, coprì tutto quello che c'era da coprire nel capolavoro appunto di Michelangelo. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24. Che ne pensate voi dell'impudicizia artistica che vada comunque coperta e velata, ma a tutte le latitudini, non soltanto perché passa il presidente iraniano? A quanti danno fastidio le statue nude? Melog, cronache meridiane. Già la conoscevi te questa storia del cavallo coperto? A Catania? È successo? Sì, come no, quando c'è la processione di Sant'Agata. Adesso, fra qualche giorno. Sì, primi... come no, bellissima questa. E lì c'è un cavallo a zampe all'aria, con le vergogne esibite. C'è un cavallo impennato con le palle di fuori. Ecco, e quindi viene coperto, giusto? Che ci mettono? Un velo? Viene coperto, non penso. Cioè i fedeli di Sant'Agata coprono le palle del cavallo. E mi pare giusto. È giusto, certo, è brutto vedere le palle del cavallo, che è una cosa bruttissima. Manda il pezzo. Ha scatenato le polemiche la decisione di coprire una serie di statue di nudi dei musei capitolini in occasione della visita del presidente iraniano a San... Rouhani, una scelta ampiamente commentata dalla stampa internazionale e duramente criticata da numerosi esponenti politici italiani, PD compreso. Un eccesso di zelo che rischia di mettere in imbarazzo Rouhani stesso, ha detto Pierluigi Bersani. È una questione giornalistica. Non ci sono stati contatti a questo proposito. Che gli italiani sono un popolo molto ospitale, un popolo che cercano di fare di tutto per mettere i loro ospiti. Sì, vabbè, adesso fa un po' il paraculo il presidente, chiaro, non lo ammetterà mai, non lo dirà mai, non lo accenderà mai. Non credo sia proprio così, ma non credo nemmeno che si potesse fare qualcosa di alternativo. Ma non voglio adesso entrare, mi sembra che questa vicenda se ne stia parlando anche troppo, mi interessa fino a un certo punto. Voglio capire la percezione generale in quelle, purtroppo chiedo scusa, erroneo fuori onda che c'è stato poco fa con un buttafuoco con cui stavo parlando durante la pausa, mi ha confermato lui siciliano che ancora per la grande festa di Sant'Agata, che sarà fra poco la prima settimana di febbraio, ci sarò anch'io, ci andrò, Sant'Agata c'è un cavallo impennato con le pudenda in vista, ma anche il fallo equino è motivo di pudicizia e va ricoperto, e quindi mettono una sorta di velatura alle palle del cavallo di Sant'Agata. Questo accade in un momento importantissimo del culto nostrano, una tradizione popolare, quindi non è che siamo così distanti anche noi da questa sorta di iconoclastia delle pudenda. Eva Cantarella, buongiorno. Buongiorno. Come ha commentato lei nel suo immaginario la notizia, intanto come uscita dai giornali, vedere appunto la Venere capitolina, che poi è una Venere abbastanza pudibonda, è coperta perché a qualcuno dia fastidio? Beh, la prima cosa sbagliata è stata quella di scoppiare a ridere, perché mi è sembrata una barzelletta. Poi immediatamente dopo sono stata presa, come dire, da ira funesta. Ricordo perché che Eva Cantarella, giurista, scrittrice, studiosa della cultura greca e latina, ha scritto un'infinità di libri anche proprio sulla percezione del peccato, la vergogna, la diversità nel mondo classico. Ne cito uno: Non sei più mio padre, il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico. Ma in particolare, quella Venere, quando fu scolpita, non era vista come qualcosa che andava velato, andava nascosta. Ma stiamo scherzando. Per i greci, non ho bisogno di dire che cos'era la bellezza per i greci, no? Per la cultura greca. Ecco. E la bellezza era la nudità dei corpi. L'arte greca, fin dall'inizio, altro non è che rappresentazione di corpi maschili e femminili assolutamente nudi. Voglio dire, non c'era nessuna... Era inconcepibile, le due cose andavano assieme. Al nudo non si associava al peccato, non gli veniva nemmeno in mente. Ma il peccato, grazie a Dio, per loro. Nemmeno l'idea del peccato. Beh, qualcosa di non era tabuizzato, ecco. Non c'era il tabù del nudo. Ma vorrei anche dire, a proposito del faccenda del fallo del cavallo, no? che voglio dire, nel mondo, siamo anche semplicemente a Roma, al mondo romano, a Pompei. Se lei gira per Pompei, tutti lo sappiamo, la famosa stanza segreta, falli ovunque, no, falli ovunque, perché il fallo era portato, sì, con le ali, con le rotelle, con le braccia e le gambe, divertentissimo. Sì, ma poi voglio dire, era il simbolo del potere maschile, della riproduzione, ed era assolutamente, faceva parte, come dire, della vita normale, lo si vedeva sui muri a Pompei, perché era anche, portava bene. Priapo non era il custode dei campi, che se qualcuno coglieva le mele del mio albero, poi verrà Priapo e coglierà le mele del tuo di dietro, ecco, per dire, era una sorta di attenzione che ti punisce. Certo, certo, ma comunque, insomma, questa storia è veramente... A me è venuta in mente subito una cosa, pensando, tornando alla faccenda dei musei capitolini. Beh, mi è venuta in mente Hollande. Hollande, che poco prima dell'attentato del 13 novembre ha annullato un banchetto di Stato per non rinunciare a quello che gli era stato chiesto, cioè di non inserire i vini nel menù. Ha capito? Sì, in Italia l'abbiamo fatto, ma la Francia ha detto non lo farà più, non lo farà più, al vino non si rinuncia. Non solo, ma al principio della laicità e alla propria storia, alla propria cultura. Noi abbiamo fatto tutto questo, coprire queste statue, queste opere d'arte, significa avere cancellato, rinunciato alla nostra storia, alla nostra cultura. Però Cantarella, l'ha fatto anche l'Italia democristiana negli anni 50, quando Andreotti ha messo le cazzarolette, non erano capolavori classici, ma erano, diciamo, gli atleti del Foro Italico, ex Foro Mussolini, che avevano comunque, anche se con molta parsimonia, qualche vergogna sotto l'ombelico, e Andreotti ci fece messe subito le cazzarolette, adesso le hanno tolte, ridicolmente. Sì, ma mi rendo conto. Allora, però, ecco, sembra incredibile che accada ancora oggi, il tempo ne è passato da allora, la mentalità è cambiata in tante cose, no? Stiamo non a caso discutendo, per esempio, delle unioni civili e della cosiddetta stipend adoption. Il mondo è cambiato, sembra cambiato, e poi saltano fuori queste cose incredibili, ecco. Ecco, vogliamo ricordare ancora, diciamo, il senso che avevano appunto queste statue, rappresentanti delle deità, ma rappresentanti anche dei momenti di bellezza classica. Non avevano assolutamente l'idea comunque di essere assimilabili a quello che oggi noi consideriamo la pornografia, cioè immagini di corpi nudi finalizzate all'eccitazione sessuale, non era quello? Assolutamente no, assolutamente no. L'immagine dei corpi nudi era associata all'idea della bellezza, e la bellezza, come noi sappiamo, era collegata al valore, penso alla parola calocagazia, caloscaiagazos, bello e nobile. Allora, il bello, il nudo era bello e il bello era nobile, quindi è esattamente il contrario del collegamento alla pornografia. Ma nella sua memoria ci sono state altre epoche, altri momenti e altri pensieri in cui il nudo e la classicità fu considerato come qualcosa che andava oscurato? Ma sì, ce ne sono stati tanti, però voglio dire, sì, lo so, è una storia che continua periodicamente, ritorna in varie parti, però è gravissima, io insisto, vabbè, non sono l'unica a dirlo, no? Quindi non ci siamo civilizzati a questo punto di vista, abbiamo alle spalle dei progenitori del mondo classico che erano molto più liberi, molto più leggeri nei confronti della corporeità di quanto lo siamo tuttora noi, liberissimi, multipli, poliamorosi e via dicendo. Era anche una religione, il mondo classico, la religione classica era politeista, e noi qui parliamo invece di culture e di religioni che sono tutte monoteiste. Il politeismo aiutava anche in questo senso, secondo me, nel senso di non dare non permettere una cosa di questo genere. Ma infatti noi siamo cresciuti nella nostra misera e superficiale educazione di bambini che andavano a scuola facendo il catechismo, col fatto che Adamo ed Eva in realtà fosse tutto simbolico, il frutto proibito, perché appena vengono scoperti si coprono subito le vergogne. Quindi, naturalmente. E quindi noi pensavamo tutti, sì, il frutto proibito, Eva, è altro che, si sono fatti chissà cosa. Noi pensiamo quello, sì, noi pensiamo quello. Sentiamo un attimo, Ushang, buongiorno. Ushang. Buongiorno. Ho pronunciato bene il suo nome? Sì, perfetto. Lei è iraniano. Allora, sì, ci dia una lettura serena, secondo lei, di quello che è accaduto, veramente. Ascolti, io naturalmente vivo in Italia da 45 anni. Quindi ne avrà viste di cotte e di crude? Sì. Per strada, allora, dico. Innanzitutto penso che il presidente iraniano non avrebbe mai preteso una cosa che è successa, come lei aveva detto, qualcuno è stato più realista del re. Detto questo, io penso che noi in primo luogo dobbiamo far rispettare a casa nostra le regole nostre, cioè dobbiamo porre come in Iran. Se qualcuno va in Iran, gli chiedono di mettersi un culare in testa, giusto o sbagliato, sono le loro regole. Sono d'accordo, io infatti. Non capisco. Pronto? Sì, ma dico, lei proprio da iraniano, leggo in lei una mentalità assolutamente aperta e laica, comunque rispettoso, immagino, di quella che è la tradizione religiosa, etica del suo paese. Guardi che c'è anche un'immagine sbagliata, penso, cioè Oriente è molto grande, l'Iran è una nazione con mille sfaccettature, insomma sicuramente le persone che sono laici sono forse anche più maggiori di quello che uno può immaginare. Ecco, questo mi interessa, però mi interessa che lei mi dia qualche elemento in più su questo. Secondo lei, ecco, facciamo un punto di vista. Come è vista nel suo paese, come sarà vista nel suo paese questa notizia che onestamente ci sta ridicolizzando? Cosa potrebbero pensare? Hanno fatto bene, hanno fatto male, sono ridicoli, ma che ce ne importa a noi della Stato? Molta gente sorriderà su questa cosa, perché... io ho detto, purtroppo noi abbiamo sempre un'immagine molto folcloristica di nazioni orientali e non vediamo, sì, io non dico che lì non ci sono anche tantissimi integralisti, però la maggioranza è tutta un'altra cosa, ma io penso che questo che è successo fa sorridere, ma comunque soprattutto io vivo in Italia, mi interessa quello che succede da noi. E siccome questo argomento oggi sono la statua, ieri erano gli immigrati, che vengono, fanno di tutto e poi sempre ci lamentiamo, ma io penso che noi dobbiamo avere poche regole e far rispettare a casa nostra. Ecco, secondo lei, però me lo deve dire con grande sincerità, se il presidente iraniano fosse transitato quel corridoio con le statue scoperte, sarebbe accaduto qualcosa di irreversibile? Cosa avrebbe fatto? Finta di nulla? Guardi, è una persona... Però lo dica sinceramente, nel senso... Io, guardi, gli dico sinceramente, mi fido del suo parere. Io gli dico sinceramente, allora, io non sono neanche credente, tanto per cominciare... Però, però lui deve rappresentare comunque persona... un paese, sì, quindi... Sì, no, ma comunque voglio dire, lui è una persona, al di là, è molto pragmatico, anche molto intelligente, e anche culturalmente ha una sua... Cioè, è una cosa che io credo che lui né ha dettato, né ha voluto, e probabilmente è rimasto pure lui imbarazzato di tutta quella scena, che è veramente terrificante, insomma, andare con tutto... anche per ragioni di lavoro, sono un architetto, vivo qui, lavoro, e quindi pensare una cosa del genere mi sembra veramente, siamo arrivati a toccare proprio fondo con questo. Quindi l'ascoltatore iraniano dice, è ancora più paradossale la realtà di quanto venga rappresentata dai giornali. In realtà abbiamo messo in imbarazzo l'ospite iraniano, perché dice, guarda quanto sono cretini questi che pensano che io sia così scemo che se vedo la Venere non capisco che è una statua classica, 2000 anni fa, mi ponga problemi. 800 24 00 24, andiamo avanti tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ma vero, ho sentito persone stamattina, confermi quello che ha detto il presidente? Sì, io ho sentito, se ne sbattono, ho chiamato poco. Oggi che han detto? Quelli dell'Istituto di Cultura Iraniano, dell'ambasciata iraniana, ma han detto? Hanno confermato, cazzate. Non è vero, che loro non avevano chiesto niente. Ma poi oltretutto, ieri, proprio ieri, c'è stata l'inaugurazione della mostra congiunta Iran-Italia al Museo Tucci, perché è una cosa che nessuno sa, che l'Italia è il partner numero uno negli scavi archeologici, e figurati in Persia di nudi quanti se ne trovano. No, ma adesso dico una cosa ridicola, guarda, tu prendi Repubblica, guarda, a pagina 7, lo stesso giornale che fa vedere tutte le statue, c'è il Papa e il Presidente Rouhani che sfogliano dei codici miniati, e il Papa vicino gli fa vedere le foto. Alle spalle Rouhani, guarda, tutti angeli nudi, sì, tutti, certo, tutti nudi, dietro il turbante, il capoccione di Rouhani e del Papa, tutti nudi, e nessuno si scandalizza. A me è venuto il dubbio che secondo me quelli, diciamo, del cerimoniale, non sapevano che fosse persiano. Che pensavano che fosse, insomma, magari saudita, un arabo, di poi iraniano invece, che c'entra niente. Oltretutto l'arte è proprio un pane quotidiano per loro. Ha fatto una buffonata. Mandate sto pezzo, stavo in onda. Ah, non c'era niente. Io con questi fuori onda di buttafuoco, scusate, ma io mi lascio prendere la mano perché Pietrangelo, l'amico, sta qui che scrive e io perdo il senso della diretta. Però, e parlo così. Scusami, sì. Mi introduco, consiglia la mostra. Sei in diretta adesso? Sì, sono in diretta, scusate. Uno spot, andate a visitare la mostra al Museo Nazionale d'Arte Orientale Tucci a Roma in via Merulana. Bravo. C'è questa mostra sulla ricerca archeologica italiana in Iran. E si vedranno nudi a bizzeffe, si capirà che in realtà a nessuno gliene frega niente, almeno di questo, poi succederanno altre infamità terribili. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Io volevo dire che per me è un falso problema, perché è una questione di cerimoniale, di protocollo, di rispetto. Persino la regina Elisabetta, quando va in Arabia Saudita, si veste come una suora. Vabbè, non è che anche quando stia in Inghilterra è vestita come una chanteuse, capito? Ma l'abito lungo, le mani coperte, il cappello, soltanto il viso che si vede. Vabbè, quella è la regina, è giusto. E lo so, ma deve anche lei adeguarsi a un certo protocollo. Per me è un falso problema. Eh sì, ma le statue stavano così male a vedere il Corriere. Ma le statue stavano a casa nostra, esattamente. Scusi, signora, le statue stavano a casa nostra. Questa è la questione. E soprattutto, nessuno aveva richiesto del cerimoniale iraniano: mettete lo scatolone sopra la statua. Questa è la cosa ridicola. È chiaro che se uno viene in Italia, evita, che ne so, di fare qualcosa che sia fortemente lesivo, non so, se vogliamo dire, della religione di Stato. Mica si mettono a dire a morte tutti i cristiani, questo sarebbe brutto, ma è uno scrupolo non richiesto quello che hanno fatto di coprire le statue. Questa è la differenza, capito? La regina si adegua, quello fa parte del protocollo. Anche i nostri ministri, le ministre, quando vanno in paesi che questo richiedono come attenzione, si mettono il velo. Qualcuno le critica, ma secondo me quando vai a casa da altri fai quello che vuoi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Anch'io sono d'accordo con la signora, signor Nicoletti, mi dispiace perché ritengo lei molto preparato. E cos'è che non ho detto di giusto? No, ma il protocollo, signor Nicoletti, il protocollo è un capo di Stato, non è una vita di un pullman di pellegrini che vanno a visitare. Ho capito, ma il capo di Stato dice a lui gliene sbatteva assolutamente nulla, lo dice lui, l'ha detto. Fatto prima, il protocollo è fatto prima, signor Nicoletti, mi creda. Il protocollo cosa significa? Che io organizzo tutto un percorso e l'ho capito. Gli altri, allora, se vogliamo essere un po' ridicoli, lo facciamo, però secondo me il protocollo, c'è, cioè, sì, una regola. Ma scusi, la regola posso anche capirlo. Metta per assurdo che il presidente a questo punto sia semplicemente a posteriori, dica questo, in realtà qualcuno nel suo protocollo ha detto: beh, non è bello vedere le statue nude, ma potevano trovare un percorso in cui non ci fossero state nude, se questo era il problema. Ma le ripeto, è un falso problema. Se lei guarda Repubblica pagina 7, c'è il presidente assieme al Papa che sfogliano un libro di fumetti religiosi, ci sono, e dietro le spalle sono tutti angeli nudi affrescati nella stanza vaticana. Ma com'è giusto che sia, saranno Adamo ed Eva, non so che. È un problema che si sono posti. I gregari, come al solito, sono molto più preoccupati far bella figura piuttosto di quanto lo siano le prime linee che rappresentano uno Stato. Vittoria Aliata, buongiorno. Buongiorno, ho seguito con interesse. Vittoria Aliata di Villafranca, un arabista, islamista, giornalista. Tra i suoi libri ricordiamo Are, Memorie d'Arabia di una nobildonna siciliana, Garzanti 80. Non c'entrano niente qua gli arabi. Un suo punto di vista colto e informato su quanto veramente chi si è posto il problema di protocollo conoscesse quello che è l'Iran o la sensibilità iraniana rispetto al possibile scandalo di statue nude del mondo classico. Il suo punto di vista, insomma. Ma assolutamente, qui non si tratta neanche soltanto di Iran, qui si tratta assolutamente dell'impostazione islamica, che si rispettano le altre tradizioni, al punto che per esempio in Malesia, un paese musulmano, i templi buddisti, i templi indù, di cui è piena perché una parte cospicua della propria popolazione è indù, e sono pieni di statue di danzatrici nude, no? Quelle un esempio più nude. Chiaro di questo è un paese musulmano, all'interno delle comunità ciascuno fa quello che vuole, quindi è chiaro che il presidente di un paese, di un grande paese con una storia antichissima come l'Iran, può offendersi non per una questione di questo genere, di cui sicuramente non avrebbe neanche fatto, non ci avrebbe proprio pensato, io credo assolutamente, perché fa parte della civiltà loro avere un insieme di cose, dagli adoratori del fuoco è un paese pieno di cosa sono gli adoratori del fuoco? Mi spieghi gli adoratori del fuoco, visto che la città gli zoroastriani sì. Sono una parte anche quella cospicua della popolazione iraniana. E allora che cosa vuol dire? Sono rispettati, hanno le loro tradizioni, hanno dei riti funebri che sono totalmente diversi da quelli musulmani, ma sono tutti rispettati, così come gli ebrei. Il bazar dei tappeti è nelle mani della comunità ebraica iraniana, che ha i propri diritti di praticare la propria religione da tutti i punti di vista, e anche vestendosi e utilizzando le proprie tradizioni. Questa è l'interpretazione corretta dell'Islam. Quindi secondo lei come lettura, dove è stato il vulnus? Poca cultura, poca informazione, l'eccaculaggio genetico delle persone che si occupano di cerimoniale, qual è stata? Ma io penso grande superficialità, perché la cosa che conterebbe sarebbe di dimostrare invece nei contenuti che noi rispettiamo la cultura dell'ospite, quindi fargli capire per esempio che sappiamo quanto sia stato forte il contributo del nostro passato islamico all'interno della cultura italiana, come è avvenuto tramite la Sicilia, tramite il Sud Italia, tramite Pisa, cioè sono state delle contaminazioni enormi, e questa è una cosa. Quindi perché portarlo al Campidoglio sotto il cavallo di Marco Aurelio? Poteva andare a fare un giro a Pisa o in Sicilia e fargli vedere. Sarebbe stato più intelligente. Se lei pensa che per esempio l'UNESCO ha appena decretato che la Sicilia arabo-normanna nasce al momento in cui i normanni distruggono nel 1061 la civiltà precedente, lei capisce bene che questi sono i punti da correggere e non certo i brachettoni. Sì, io non voglio sottostimare o fare finta che non esistano i problemi di diritti civili, assolutamente, le persone impiccate, oggi i giornali erano pieni di foto di omosessuali impiccati, di donne lapidate, su questo non ci piove, però direi che è un altro versante. Dal momento che ricevi un capo di Stato, vuol dire che tutto sommato dai a lui il diritto di esercitare nel suo paese quella che è la sua legge, se no non lo vedrei gomito a gomito che guarda le figurine col Papa, fatto questo non capisco questa mancanza di conoscenza profonda della cultura e questa paura di non essere adeguati. È terribile questa cosa. Sentiamo Massimo un attimo. Massimo, buongiorno. Ciao Nicoletti. Eccomi. No, io volevo un attimino sottolineare che ogni volta che ci sta qualcuno di importante in Italia ci facciamo una gran figura di merda. Io ricordo quando il Dalai Lama è venuto, che non è stato ospitato, non mi ricordo da chi, per una questione di... Per paura di mettere di rapporti con la Cina, è vero. Bravissimo, sì. Quindi lo calcolaggio verso la Cina. Mi ricordo addirittura, non so se lei la ricorda, quando venne addirittura Gheddafi, che praticamente chiese addirittura delle donne che si facessero da compagnia in Italia... quando è venuto nel suo harem, che non so dove l'hanno fatto, sì, qui a Roma fece una sorta di fece questa cosa qui. Quindi dove copriamo le donne, le statue, e dove gli diamo le donne? Cioè una cosa, un paradosso tutto italiano, perché gli diamo ospitalità, quindi se viene un puttaniere gli diamo le puttane, se viene uno casto gli diamo la castità. Siamo un po' strano, o siamo una cosa o siamo un'altra, mi sbaglio, forse dico troppo. Sì, diciamo che si sta allargando la vicenda ad altre considerazioni. Sì, è vero, quando venne Gheddafi fu ridicolo, fece una lezione di corretta lettura del Corano, proprio lui, capito, a una serie di fanciulle che erano state reclutate da un casting di ragazze pompon, di cubiste o di danzatrici del palo, ma ci stava tutto, era un altro clima. Qua la cosa, siccome tocca e lambisce il mondo dell'espressione artistica, è qualcosa di molto più raffinato, di molto più profondo, che affonda le radici molto più lontane. Mi ricorda uno sconosciuto grafomane accanto a me che mi scrive: quando venne Gandhi in Italia, negli anni di quando c'era lui, donna Rachele dovette occuparsi di mungere una capretta per dare il latte a Gandhi, perché il dovere d'ospitalità era quello. Qui mi ha detto buttafuoco, che volete a me. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Lei deve, diciamo, in qualche maniera stigmatizzare un'informazione non proprio esatta data la buttafuoco, naturalmente. Sì, perché il cavallo che si trova in quella piazzetta non è impennato come quello della Ferrari oppure della Rai, ma bensì è mollemente adagiato sul fianco. Come... E diciamo questo... che la postura rende ancora più evidente l'inverecondia, certo, dei testicoli appoggiati. Perché è proprio coricato come sul lettino, su una dormita. E quindi c'è queste gigantesche palle distese e molto, sì, più scarse. E con che vengono coperte, visto che lei è del posto? Ma con lenzuoli, ma ultimamente, prima non si faceva. Ultimamente vengono coperte con lenzuolo? Ma lei è di Catania, catanese? Sì, sì, sì, Catania. Senta, una gentilezza, io verrò a Sant'Agata. Dove si compra usacu? Che voglio mettermi anch'io il vestito tradizionale. Vabbè, no, questo non glielo so dire, però dovrebbe andare nelle confraternite, dovrebbe affiliarsi a una confraternita. Ah, se no non te lo danno, no, solo questo, è un mio dubbio, non c'entra nulla con la trasmissione. Andrò alla festa di Sant'Agata. E poi devi imparare a dire tutti dei voti tutti, viva Sant'Agata. Tutti dei voti tutti? Sì, devi gridare dietro al feretro della Santa, e ti dici questa frase. Tutti dei voti tutti, vabbè, mi allenerò. Grazie, ci sentiamo tra un istante, a tutti, fra poco. Melog. Cronache meridiane. Più andiamo avanti in questa conversazione con gli ascoltatori, informatissimi, addirittura ci ha chiamato un ascoltatore iraniano, più ci rendiamo conto che sì, questa vicenda in sé è ridicolo vedere lo scatolone sulla statua, ma è ancora più ridicolo che nessuno si sia posto in maniera corretta, in maniera informata, a capire quale sia stata la vera sensibilità del presidente Rouhani, non si è posto questo problema. Mi domando perché chi si occupa del cerimoniale Vaticano, ma sarà più delicato il cerimoniale Vaticano, visto che bene o male è un capo di Stato di un paese che comunque non è che ha diciamo un occhio molto favorevole nei confronti dei cristiani, non si è posto il problema, sta con il Papa, pagina 7 di Repubblica, sfogliando un librone con immagini sacre, alle spalle si vede affrescate in alto, sacre rappresentazioni in cui vedo corpi nudi, non so bene se Adamo ed Eva cacciati dal paradiso sono angeli, sono gente ignuda proprio dietro la testa del Papa e del Presidente. Non si sono posti problema perché non c'è problema, perché probabilmente hanno studiato un po' di più i signori del cerimoniale Vaticano, hanno tutti i difetti del mondo, ma almeno studiano rispetto ai signori del cerimoniale, non si sa bene se del Campidoglio, di Palazzo Chigi, che hanno pensato di porre questo scatolone a copertura dell'ignominia che solo per loro era ignominosa. Ismaele, buongiorno. Buongiorno, sono Ismaele. Ismaele. Persiano. Lei è persiano? Sì, è laico, però rispetto a tutte le religioni, tutte le religiose, se sono corrette. Se sono scorrette, mi incavolo. Dica il suo punto di vista su questa vicenda. Allora, mio punto di vista, forse i protocollari hanno inserito questa scatola di che è su statue per censurare, per mostrare che questa persona che è venuta in visita commerciale è una persona fanatica. Ah, lei ci vede addirittura non è stupida la sua supposizione, sa che non è del tutto peregrina. È stato un meccanismo per dargli del povero contadino che si scandalizza, capito? Esatto, per rendere negativo la visita, per fare uno sgarbo, per fare qualcosa. Quindi c'è diciamo un complotto dietro, potrebbe. È un complotto. Sì. È una lettura che non avevo considerato. Ma, però si è rivoltato contro chi l'ha fatto, perché il presidente si è subito smarcato da questa cosa, è passato ridicolo lo scatolatore, sì, non tanto il presidente. Sì, vedrai Nicoletti che finisce dopo 2 o 3 giorni questa storia, finisce e non si ricorda. Ma lei, Ismaele, comunque sia, le danno fastidio le statue nude? Trova che sia... No, io sono un scultore, sono venuto in Italia a studiare scultura. Quindi lei, quante modelle nude avrà visto durante la sua carriera? Sempre, tutti i giorni all'Accademia. E non le dà nessun problema. No, mi fa piacere avere questa... No, assolutamente, noi persiani non siamo arabi, non siamo fanatici. Ecco, questa è la cosa esatta, ecco. la parola che mancava, l'ho fatto capire. Sì, si confonde. Molti pensano che i persiani sono arabi. No, non sono arabi assolutamente. Sono etnie diverse dagli arabi. Sì, sono però diciamo che c'è stato un momento integralista molto forte in cui giravano i guardiani della rivoluzione a vedere che le donne non avessero un centimetro di caviglia scoperta. Questo è accaduto comunque. Forse ancora c'è questo retaggio e si immagina. Io non so bene come sia la complessità della situazione, ma 2 iraniani che mi hanno chiamato mi dicono che comunque sia c'è un'idea generale di radice, di fondo nella visione del mondo dell'iraniano medio, che non è comunque colpita se non nei fanatismi integralisti da una visione di una statua classica nuda. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Al di là del fatto che Maurizio Crozza, che di solito mi diverte, ha avuto secondo me una caduta di stile, ha perso una buona occasione per starsene. Ma no, è stato banale, ha detto quello che dicono in ogni bar dello sport, questo... Esattamente. Come vede la situazione, se uno analizza, è un po' più complessa della semplice fotografia dello scatolone, c'è molto più dietro quello scatolone di quello, esatto, che si immagina. Io vorrei rivolgere anche una domanda a chi parlava prima del protocollo, tante belle cose, ma se per ipotesi la regina d'Inghilterra andasse a trovare, diciamo, se esiste il re dei popoli dell'Amazzonia, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andare in giro nuda e con una tazzina in bocca o qualcosa del genere per deformarsi il viso? Le pensi il principe consorte con un astuccio fallico? Sarebbe imbarazzante. Sì, magari anche con un pezzo, un ramo di un albero infilato in orecchio, non banalizziamo. Sì, questo è più chiaro. Sì, no, capito, per dire, diciamo, il relativismo culturale e i suoi limiti, se no alla fine si sfocia in dei paradossi, ma il paradosso l'abbiamo sfiorato questa mattina, anzi ci siamo infangati fino alle caviglie nel paradosso. Mario, buongiorno. Buongiorno. Dunque, è una questione di soldi. E su questo non ci piove, cioè, mica l'hanno chiamato che gli sta simpatico. Se io devo fare un affare e con la controparte cerco di metterla a suo agio o di non offenderla, per cui se viene a casa mia io posso togliere i quadri che possono infastidirlo. Ma se... Hai capito? Il Vaticano non deve fare gli affari. Allora, per cui... lei, in linea di massima, il suo ragionamento è molto coerente. Lei dice: lo fare un affare con uno. Tecnica pratica. È chiaro, lo invito a casa. So che non gli piace la pasta e fagioli, non gliela faccio. Oppure so che gli piace la compagnia femminile, trovo due signorine compiacenti che lo accompagnino. Questo, esatto, ci sta tutto. Se non pensa ai soldi, pensa a fare. Ci sta tutto, basta. Perfetto. Però esiste oggi, nel mondo moderno che è un po' più complesso, una fattispecie da considerare, quella di come si comunica qualcosa. In questo caso sarebbe stato molto più intelligente, anche se strumentale. Guardi come si è mosso il Papa. Il Papa è stato bravissimo, intelligentissimo, l'ha chiamato, non ha accennato ai morti. No, finisco. L'aspetto della comunicazione è importante, perché se ci si fosse accordati su qualcosa che comunque sia fosse stato un gesto di grande ospitalità nei confronti del presidente iraniano, ma non abbia gettato nel ridicolo che l'ha fatto, sarebbe stato meglio, perché questo gioca negativamente in generale. Ha messo in imbarazzo lo stesso presidente, che ha dovuto giustificarsi, e questo non gioca bene per gli affari, perché lui potrebbe dire: sì, vi faccio fare affari d'oro di miliardi, fantamiliardi con me, però non mi mettete in mezzo ai casini facendomi passare per un bacchettone. Questo è stato l'effetto, è stata gestita male secondo me. Beh, è una questione... Bisogna essere furbi anche quando si fa le cacure. No, ma il principio comunque esiste. Sì, il principio magari esiste. Questo è stato fatto male. Comunque fatto male. Quando è andato a Torino gli hanno coperto dei manifesti di una mostra di pittura, un po' così. Sì, no, questo non lo sapevo, lei lo sa di sicuro. Quando è andato a... mi sembra per la sindone, sì, pochi mesi fa. Sì, cosa... C'erano dei manifesti, mi sembra, dell'EMP che era... Sono cose che si fanno, insomma. Si fanno. In questo momento, siccome è scoppiata sui giornali, non ne parliamo. Pino, buongiorno. Pino. Buongiorno. Sì. Volevo dare solo una segnalazione, un apporto alla chiacchierata molto bella e sempre sagace. In India c'è un sito archeologico importantissimo che si chiama Khajuraho. Notissimo. Dove ci sono degli edifici alti 20-25 metri. Sono... Dove c'è tutto un trenino di ingroppamento, lo sappiamo. Dove c'è... Esattamente. E l'India è un paese di oltre 1 miliardo e 3 di abitanti. Probabilmente ce ne saranno 300-400 milioni di musulmani, questo per certo. Nessuno si è mai preoccupato. E questo sito archeologico è oggetto di visita regolare di musulmani che vivono all'interno dell'India e di quelli che transitano per turismo in questi siti. Noi invece ci dobbiamo genoflettere e pregare. Sì, ma non è genoflettere, è che noi non conosciamo bene le cose. Pensiamo che l'integralismo orrendo che demolisce le città archeologiche sia rappresentativo della sensibilità di un paese. La realtà è sempre più complessa di quello che sembra. Grazie Chiappini, grazie Intonti, a domani.